centrocampo, comunque da tre quarti, un sinistro al volo impressionante. Tutti convocati di Giovanni Capuano. Un saluto da Gisilone. È la vigilia di Ferragosto, ma noi siamo qui e vi convochiamo tutti. Oggi però vogliamo giocare un po'. Oggi proviamo a sorridere guardandoci indietro, guardando alla stagione che si è conclusa. Oggi proviamo a fare le nostre personalissime classifiche, il meglio e il peggio del nostro calcio. Il meglio e il peggio anche come protagonisti, perché molti di questi personaggi li ritroveremo anche dopo questa settimana di Ferragosto, pronti a riempire le nostre domeniche. Buon pomeriggio a Fabrizio Bocca, collega di Repubblica. Ciao, buon pomeriggio. Ciao Fabrizio, buon pomeriggio. Mettendoli insieme ci sono alcuni idoli assoluti. Spesso ci lamentiamo del livello del nostro calcio, delle polemiche, dei botte e risposta, però la verità è che poi quando non ci sono un po' ci mancano, no? La protesta del panino. Ma direi insomma l'esercito di oltre 2000 stagisti presenti a Bruxelles si può permettere. In oltre 200 si sono riuniti a Piazza Luxemburgo davanti all'Europarlamento ormai semivuoto per il periodo estivo. La protesta voleva dare voce alle crescenti difficoltà che come giovani europei, in questo caso super qualificati, incontrano sul loro percorso verso l'inserimento nel mondo del lavoro. I tirocinanti lamentano posizioni mal retribuite. Sì, io poi se parliamo di calcio mercato, ad esempio, impazzisco per i tormentoni. Ad esempio, a luglio non si poteva giocare a calcio senza Nainggolan. Quasi fosse diventato il centro del calcio mondiale, ma ce ne sono altri. Il Milan che inseguiva Ola John per risolvere il problema del gol, andatevi a vedere le statistiche di Ola John ad esempio. Però noi ci innamoriamo di queste storie, di questi nomi, di questi tormentoni. Dipendenti sostituiamo persone maternità o in ferie e tutto questo gratis, in cambio abbiamo responsabilità e molto lavoro senza tutela. Io ad esempio per 160 ore di lavoro svolto mensilmente prendo 400 euro. Con questi soldi non riesco neppure a coprire i costi dell'affitto e del vitto. Non abbiamo ferie né copertura previdenziale. Penso che questo sia il problema principale. Ma ecco l'opinione del finlandese Lassi Armala. Noi però vogliamo dare un'occhiata anche a quello che è stato fino a un paio di mesi fa, perché poi, lo ripeto, questi personaggi ce li ritroveremo e ci faranno anche sorridere. Allora noi oggi costruiamo la nostra classifica del peggio e del meglio e la usiamo come spunto per fare due chiacchiere con Fabrizio Bocca. Fabrizio, se sei d'accordo, partiamo dal peggio. Partiamo dal peggio e da un presidente che io temo l'anno prossimo un po' ci mancherà, perché il suo Palermo è finito in Serie B. Però anche quest'estate ha esternato. E allora Maurizio Zamparini. Non ho proposte di lavoro, ma non credo che farò un altro stage. Si viene pagati solo per un rimborso spese da 100 euro, poco più. Chi ha avuto addirittura solo l'abbonamento del tram. Dopo questa esperienza non credo che ne farò un'altra. Non ho ancora deciso, non ho piani per il futuro, ma non mi posso permettere di non essere pagato ancora. Ho deciso che non posso più affrontare e sostenere una cosa di questo tipo. Idolo assoluto Zamparini. Quanto lo quotiamo l'esonero di Gattuso? Per uno stage presso l'istituto. Ma io ho perso addirittura il conto di quanti allenatori Zamparini abbia cambiato nella sua carriera. Sì, ma l'ha perso anche lui, temo. Molti sono già al terzo o quarto stage e le prese con il secondo master post universitario. Tra le comunità più rappresentate c'è quella italiana. Basti solo ricordare che uno ogni cinque richieste di stage nell'istituzione europea a marzo 2013 arrivava proprio dal mio paese. Alcuni come il giovane italiano di Bruxelles si sono riuniti in gruppi per nazionalità, ma la sfida è mettersi in rete grazie anche ai social network, una piattaforma per cambiare le regole tutti assieme e vedere riconosciuta una carta dei diritti. E magari altro che telecamere negli spogliatoi, flash interview. Io credo che il vero format sarebbe poter mettere le telecamere nelle stanze dove si fanno le riunioni tra Zamparini e Gattuso. Noi stiamo scherzando, Gattuso sicuramente avrà una straordinaria carriera da allenatore, e tra l'altro è stato stato coraggiosissimo iniziare 24, da Palermo però io ho letto in tanti che scherzando hanno scritto che ha firmato un contratto bisettimanale, bimensile al massimo. Infatti gli avevo dato 60 giorni. 60 comunque giorni. Ricordiamoci sempre che la B è più facile della Serie A per una squadra così, quindi sicuro? Insomma, beh, io penso di sì, insomma, il Palermo in Serie B dovrebbe magari, ecco, magari per dirti non ci mette un anno, ecco, ma prima o poi torna, ecco, insomma, sono squadre destinate a fare il grande salto prima o poi, queste grandi squadre qui, insomma, in B sono un po' nel brodo loro, prima o poi saltano fuori, poi hanno un grandissimo pubblico. Comunque in bocca al lupo a Gattuso e anche a Zamparini, che ha detto che ha imparato dalla lezione dell'anno scorso. Quarto posto, un altro idolo assoluto, José Mourinho e la conta degli allenatori del Real Madrid. John Toshak, Di Stefano, Antic, Binaca, Benito Floro, Arsene, Fabio Capello, Aincas, Idink, Del Bosque, Queiroz, Camacho, Garcia Ramon, Vanderlei Luxemburgo, López Caro, de novo Fábio Capello, Juan de Ramos, Schuster e Pellegrini, 18 entrenadores em 21 anos, 5 semifinales de Champions. El malo del Mourinho, 3 anos, 3 semifinales de Champions. Okay. ¿Quieres un papelito? Oh, avrà anche fatto 3 semifinali di Champions e tutti gli altri invece poco o nulla, però Fabrizio, davvero José è il numero uno. Io ho seguito anche quest'estate i suoi primi passi in Inghilterra, pare essere dai toni più dimessi rispetto al passato, ma io mi aspetto scintille, scintille. Assolutamente sì, ma lui comincia sempre un po' così, molto benevolo, no? Cercando un po' di far sorridere la gente, un po' tutti, anche l'ambiente, anche i giocatori, i presidenti, i tifosi, eccetera, e poi appena comincia il campionato scatena quella che è la sua guerra, no? Del resto il personaggio lo conosciamo, lui è abituato a fare così, è anche bravissimo a fare così, perché però insomma non dobbiamo dimenticare che comunque secondo me al Real Madrid Mourinho ha decisamente fallito, perché il campionato in Spagna prima o poi lo vincono tutti, o lo vince il Barcellona, lo vince il Real Madrid, prima o poi lo vince, insomma, ma è sulla Champions, ha fallito Mourinho. Sì, altro che conto delle semifinali. Io Fabrizio ho l'impressione che nei prossimi mesi Mourinho ingaggerà un vero e proprio duello, non tanto con l'allenatore del Manchester United, dell'Arsenal, tra l'altro Premier League che è un po' di profilo un po' più basso rispetto al passato, almeno come peso degli uomini in panchina. È andato via Ferguson, è andato via Mancini, sarebbe stato meraviglioso un duello tra Mourinho e Mancini. No, io ho l'impressione che il suo obiettivo sarà Carletto Ancelotti. Io ho l'impressione che ci saranno scintille. Sì, ma sicuramente, sai, quest'estate il protagonista di quest'estate è assolutamente il calcio spagnolo, con le grandissime cose che hanno fatto Barcellona e Real Madrid, con i vari Neymar, Bale, col contratto di Ronaldo, eccetera, per cui in questo momento Real Madrid e Barcellona sono gli obiettivi di tutti i grandi club, di tutti i grandi club europei, no? E quindi soprattutto di Mourinho, che sa che quei club prima o poi si troverà sulla strada in campo internazionale, insomma, magari. Andiamo al terzo posto? Andiamo Fabrizio? Certo. Zeman è la Roma. Penso che la società l'ha preso come che io mi volevo tirare dietro, invece io mi voglio tirare avanti e voglio stare alla Roma altri 5 anni. È logico che me lo devo meritare. Va Burdisse a cercare di fermarlo, il cross è via. Anvedi che autogol Goicoechea. Riguardo i rapporti con Sabatini, che vi devo dire? Mi sono arrabbiato tantissimo una volta con lui. Ed è stata quella volta che lui cercava di fumare, che eravamo in aereo, e veramente non si può. Quella è stata veramente la discussione più feroce che ho avuto. Oh, quanto ci mancherà Fabrizio? Zdenek Zeman, quanto ci mancherà? Ma sai, sì, certo che ci mancherà, però insomma sono grandi personaggi che prima o poi rispuntano. Io io non credo che Zeman se ne rimarrà a casa sua a Roma così molto comodo, ma prima o poi ce lo vediamo rispuntare da qualche parte. Sì, anche se io credo che la parabola dell'anno scorso di Zeman alla Roma, noi l'abbiamo riassunto, è successo tutto in due giorni quello che avete sentito, la vigilia di Roma-Cagliari, l'incredibile autogol, vedi che autorete, di Goico Ecea in Roma-Cagliari, e poi il giorno dopo Baldini che annunciava l'esonero, il licenziamento di Zeman. Beh, io credo che probabilmente si sia compiuta l'ultima delle possibilità di Zeman ad alto livello, lo ha detto del resto anche lui prima dell'inizio della sua stagione alla Roma: alla mia età questo è l'ultimo treno, credo sia passato. Ma forse sì, però non darei mai niente per scontato, perché poi gli allenatori girano, comunque i presidenti fanno cose strane, poi non dimentichiamo che insomma quello che è successo alla Roma è stato anche un po' in parte abbastanza comico in questi due anni, con insomma, il più umile dei dirigenti che si è presentato come Luigi XVI, insomma, hanno fatto delle cose veramente incredibili quanto a errori, e quindi è chiaro che Zeman è uno che ha sbagliato, perché quando prendi quell'allenatore lì sai i prezzi che devi pagare, però insomma non credo che poi tutto quello che è avvenuto dopo poi ha confermato che anche su certe cose aveva ragione lui, insomma. Secondo posto ci sono due personaggi, uno sicuramente non lo sentiremo all'inizio della stagione e chissà quando torneremo a sentirlo, che è Stramaccioni, l'altro Massimo Moratti, beh insomma il flop dell'Inter. Presidente, anche su Stramaccioni? No, mi sembra che proprio in questo momento qui, ripeto quello che ho detto l'altro giorno, non posso fare un'analisi di una persona che ha a disposizione un terzo di quello che avrebbe dovuto avere. Lei conferma ancora Stramaccioni, però si leggono sempre nomi di possibili alternative, cose. Questi li scrivete voi perché nessuno ha contatto con nessun allenatore, quindi questi li leggo anch'io sul giornale, ma niente di più. No, io ho cercato di preparare la partita nel miglior modo possibile. Ed è anche fastidioso sentire fare dell'ironia anche prima della partita dai dirigenti della Juventus sull'atteggiamento tattico dell'Inter, però loro sono fatti così, e va bene così. Penso che poi a fine partita magari la pensa diversamente il dottor Marotta. Però a me ha dato fastidio la maniera ironica con cui è stato detto. Chissà se ancora la pensa così a fischio finale. Cioè, io credo ci voglia rispetto in generale. Stramaccioni, Fabrizio Bocca, Moratti mancherà di sicuro, soprattutto i giornalisti di Milano che hanno campato per anni sulle attese davanti agli uffici della Saras. Stramaccioni promette, sicuramente prima o poi lo rivedremo. Ma penso anch'io, sì, prima o poi ritornerà. Quelle frasi che avete fatto sentire praticamente è stata la sua zappa sui piedi, perché dopo che ha vinto a Torino con la Juventus tutti si aspettavano un Inter da scudetto, e invece proprio da lì cominciò a precipitare, e sinceramente Stramaccioni ha dato l'idea di non essere in grado quantomeno di frenare quel precipizio, no? Sì, dal punto di vista dialettico io credo Stramaccioni tornerà cresciuto dall'esperienza all'Inter, non è l'unico autogol quello che ha fatto dopo la Juventus, diciamo che se l'è presa con tanti in un anno e mezzo di permanenza a Milano, e probabilmente in tanti gliel'hanno anche fatta pagare e gliela stanno facendo pagare adesso, anche se evidentemente avrà un'altra chance Stramaccioni. Ma sicuramente sì, ma poi sai, non deve sempre valere il discorso che qualsiasi giovane che arriva all'improvviso si deve ritrovare la grande squadra in mano, eccetera. Secondo me Stramaccioni ha pagato un po' l'inesperienza che aveva a grandissimo livello, sai, non tutti sono Mancini o, per dirti, o Montella, eccetera. Qualcuno un po' paga il rapporto con il presidente, poi non saper gestire anche uno spogliatoio dove comunque ci sono grandi giocatori che hanno un carattere fortissimo, enorme, è difficile saperlo. Sì, si resta schiacciati, è difficile, esatto, per uno esperto, figuriamoci per un giovane che è alla prima panchina. Ne abbiamo scelta una in rappresentanza di tutte le cantonate dei nostri arbitri, ma anche le polemiche dei nostri dirigenti. E allora Pulvirenti. il segnalino, no, le sto dicendo per l'ennesima volta, il segnalino che ha, dopo ha cambiato decisione, aveva dato il gol, lo annulla la panchina della Juve il gol, mi deve spiegare chi ha annullato il gol, se è stato Pepe o Giaccherini, lo voglio spiegato. È la morte del calcio, perché non era mai accaduto che la panchina annullasse un gol. Oggi a Catania per la prima volta abbiamo assistito a questo. Ma che cosa si può fare effettivamente ora? Un cazzo, una minchia. Si può fare una minchia. Detta proprio in... Non si può fare nulla. Detto proprio in italiano, Fabrizio. Cosa si può... Idolo assoluto, Io aveva ragione da vendere quel pomeriggio, però insomma il calcio è morto a Catania, il giorno di Catania-Juventus. No, dai, abbiamo visto anche di meglio, poi ne abbiamo viste di tutti i colori, dai. Credo, temo purtroppo che ne vedremo anche quest'anno, tra l'altro stanno cambiando la regola del fuorigioco. Titolo leggendario del Corriere dello Sport, la supplica dei club agli arbitri, non abbiamo capito nulla, per favore rispiegatecelo. Guarda che se queste sono le premesse, Fabrizio. Si potrebbe chiedere a Pulvinetti come non abbiamo capito niente, come si sarebbe espresso lui. Ma insomma, sai, di questa situazione, guarda, la cosa che mi colpisce di più è il fatto che si aumentano gli arbitri in campo. Cioè, quest'anno abbiamo messo anche i giudici di porta, no? Abbiamo messo il quarto uomo, i segnalini che devono fare, i guardiani che devono fare un sacco di cose sulle segnalazioni di fuorigioco, eccetera. Però ecco, tutta questa, poi insomma, l'errore, poi in realtà insomma diminuiscono, ma di pochissimo, e comunque la polemica sul fatto, su un episodio, rimane sempre, e quando c'è il grande club diventa sempre una polemica fortissima, per cui al grande club, davanti al grande club comunque si chiude un occhio. Possono essere due occhi dell'arbitro oppure i 10 occhi anche 12, oramai siamo arrivati a 12, quindi e andremo a moltiplicazione. Passiamo ai personaggi top, alle storie top. Partiamo dal quinto posto. Beh, Montella e la Fiorentina. Però a proposito di arbitri, Montella. Cosa ha avuto il Milan più della Fiorentina? I giocatori del Milan hanno tirato meglio i rigori dei nostri. Non abbiamo sbagliato qualcuno. È un caso l'accenno ai rigori? E a come si sono stati tirati i rigori dopo la serata di stasera? No, assolutamente no, bisogna saperli tirare i rigori, assolutamente saperli realizzare. Noi abbiamo sbagliato i due, uno con la Lazio e uno a Parma sul 92esimo con la squadra del Parma in 10, e poi l'azione successiva abbiamo subito il gol del pareggio, quindi non era assolutamente ironico. No, che non era un caso, caro Montella e caro Fabrizio Bocca. Credo che quest'anno Montella e la Fiorentina ci faranno vivere altre emozioni. In campo sicuramente, poi in Champions vanno in tre, e temo che le polemiche ce le porteremo avanti anche quest'anno. Ma sicuramente sì, sai, l'altro anno, diciamo così, quella corsa per il terzo posto aggiunto diventò anche abbastanza drammatica, devo dire diventò drammatica più che altro per il Milan, La Fiorentina insomma ci puntava, insomma così, aveva questa speranza, ma insomma poi alla fine non è che abbia fallito un obiettivo il Milan. Sì, quest'anno però cambia tutto, perché insomma la Fiorentina ha investito per entrare nelle prime tre. Assolutamente sì, è probabilmente la candidata, non ti dico nemmeno essere la sorpresa dell'anno, ma insomma qualcosa del genere, insomma, perché una coppia come Gomez e Rossi, insomma, nessuno è riuscito a costruire tra le squadre, diciamo così, non di primissimo livello, a costruire una coppia del genere. Poi certo c'è la Juventus che c'ha Tevez e gli Oriente, vediamo un po'. E poi qualcuno comunque deve restare fuori da quel podio. Della Fiorentina. Assolutamente, ma qualcuno, lo ricordiamo, fuori da quel podio deve restare. Quarto posto, Mazzarri e i suoi parametri per lo scudetto. Tutto vero, anche se mancano ancora due partite alla fine del campionato, e se andate a vedere le statistiche, dovessimo riuscire a vincere le ultime due, si potrebbe addirittura battere il record di Maradona in quanto a media punti. Quindi i ragazzi, dato che hanno fatto anche, io personalmente ho fatto il massimo dei punti in carriera, vorrei cercare proprio per carattere, per dare stimoli alla squadra di arrivare più in alto possibile. E se si valutano giustamente certi parametri, lo scudetto l'abbiamo vinto noi, secondo me. Basta essere attenti, la matematica non è un'opinione. No, la matematica non è un'opinione, Fabrizio Bocca. Cosa ti aspetti da Mazzarri anche dal punto di vista dialettico all'Inter quest'anno? Beh, insomma, lui è uno che con la lingua si sa fare, insomma, è della provincia di Livorno, insomma, è uno molto combattivo, velenoso, è molto molto molto orgoglioso. Ci sa assolutamente fare da quel punto di vista lì, e poi ha trovato sinceramente un sistema per vincere sempre o quasi, no? Perché o vince la partita, oppure quando insomma le cose vanno un po' così, si mette a fare dei calcoli sulla classifica degli ingaggi e la classifica quella reale, per cui se una squadra qual è la squadra che vince? La squadra che ha migliorato con la classifica reale, quella degli ingaggi, no? Non è l'unico, però non anticipiamo nulla, perché poi ce n'è un altro che è specialista nelle classifiche, certo. però quella dei parametri, secondo certi parametri lo scudetto l'abbiamo vinto noi. Io l'avrei messa al primo posto, caro Fabrizio. Poi Franco Piantanida, autore di questa puntata, certo, ha detto no, quarto posto. Voglio vedere però se è in classifica. Vediamo, terzo posto, andiamo sul podio dei migliori. Secondo me questo, insieme a De Laurentiis, è il miglior presidente d'Italia. Io lo voglio dire, però Claudio Lotito. Abbiamo apprezzato subito cose diverse di questo uomo che lo connotavano. Ad esempio la grande moralità, è una persona che aveva lavorato anche alla Caritas, che parlava un poliglotta, che aveva una grande personalità. Sa quello che vuole, ha un alto tasso di moralità, è una persona che ha lavorato anche alla Caritas, per darvi la dimensione dell'uomo, è una persona che lavora ed è sensibile alle innovazioni tecnologiche, applicandole praticamente nel sistema di formazione della squadra, quindi è una persona che aveva tutti gli ingredienti per poter diventare l'allenatore della Lazio. Fabrizio, vai avanti tu, che a me viene da ridere. Certo, guarda, il massimo l'avrebbe raggiunto Lotito in questo caso se tutti questi concetti qui li avesse espressi in latino, che di solito è il suo forte, insomma, no? Beh, sai, Lotito è un personaggio incredibile, insomma, no? Unico, e poi tra l'altro è riuscito anche con questa sua maniera di fare, in parte amichevole ma in realtà molto anche aggressiva e anche invasiva, a contare molto molto molto nel calcio italiano. Praticamente fa coppia fissa con Gagliani e sta diventando un uomo di potere, per cui insomma la Lazio bene o male qualche cosa conta, e anche poi si può condividere o meno, ma è anche merito di Lotito. Io l'ho detto, poi noi scherziamo oggi, lo abbiamo detto, oggi la prendiamo in maniera leggera, poi in realtà dopo la borsa torneremo seri, parleremo di infortuni, preparazione, e abbiamo due ospiti d'eccellenza, però Lotito, De Laurentiis per rapporto risultati bilanci in attivo, attivo vero, adesso non l'ultimo della Lazio, ma veniva da una striscia di bilanci assolutamente positivi, sono certamente due modelli da imitare nel calcio italiano, ancor più secondo me ad esempio dell'Udinese, che fa delle grandissime plusvalenze, fa anche risultati, ma diciamo non ha le pressioni di due piazze come Napoli e Roma, quindi noi ridiamo, ma secondo me Lotito è un numero uno anche come presidente. Siamo al secondo posto a proposito di classifiche maneggiate a seconda della convenienza, Adriano Gagliani. Pensare che in questo giro di ritorno ha fatto 42 punti come l'anno dello scudetto, che da 30 partite stiamo facendo gli stessi punti della Juventus, quindi la Juventus è andata a ritmi altissimi ma non più forte di noi siamo andati nettissimissimamente più forti di tutte le altre squadre, Napoli compreso, quindi eccetera eccetera, e abbiamo tenuto il passo della Juventus in queste 30 partite dove abbiamo fatto 65 punti. in 30 partite abbiamo fatto 65 punti, che è una roba, che è tanta roba, tantissima. Nettissimissimamente Fabrizio Bocca, nettissimissimamente tanta roba pure Gagliani, perché questi suoi slogan poi in realtà a furia di essere ripetuti restano dentro, come il Milan è il club più titolato del mondo con più follower in Cina, il conto dei punti, poi ci si scherza ma in realtà il messaggio passa. Ah, assolutamente sì, beh, ma lui è bravissimo, è bravissimo in questo. Del resto, prima che di essere laureato in, diciamo così, in calcio, è laureato in comunicazione, insomma, no, Gagliani è il dirigente più d'esperienza che c'è in Italia. Poi ripeto, insomma, io non lo trovo granché perfetto o idilliaco come dirigente, ma comunque è un grande dirigente. Poi anche lui è effettivamente un mago delle classifiche, per cui fa queste classifiche strane che partono da un anno prima o da sei mesi prima. È un po' come se il record del mondo dei 100 metri a un certo punto spuntasse un tizio che dicesse: io ho quello sui 24 metri, i 56, i 74, insomma, funziona un po' così, insomma. Sì. Chi vince alla fine dell'anno solare, poi tutto il resto sono chiacchiere. Sì, tanta roba. No, le chiacchiere servono. Tanta roba, però alla fine lo scudetto l'ha vinto la Juventus, il Napoli è arrivato secondo, certo. E il Milan va ai preliminari, che è tanta roba, perché sono, se vince 30 e passa milioni a bilancio, e quindi vai a buttarli via. Però insomma, dai, andiamo al primo posto. Beh, lui è stato il protagonista assoluto della stagione, lo è stato intanto perché ha vinto, poi perché ci ha fatto compagnia a partire dall'estate con la storia del calcio scommesse. Però senti questo Antonio Conte. Io penso che io ho visto un pochettino gli episodi, devo dire che l'arbitro la direzione è stata impeccabile, perché Vucinic si è tuffato sulla prima situazione, Giovinco è svenuto in aria per un calo di zuccheri. Secondo me le situazioni sono state affrontate nella giusta maniera, ma ripeto, quando parlo di crisi siamo in crisi su tutto, anche a livello difensivo, quindi non solo di attaccanti ma anche a centrocampo e a livello difensivo, quindi si è inceppato il meccanismo e bisogna essere bravi a ritrovarlo sto meccanismo, ecco. Guardate, io sto rispondendo seriamente, quindi non è che non sto rispondendo seriamente. Voi mi state chiedendo, allora volete sempre che io faccia polemica? Adesso vedete, un Antonio Conte bon ton, lord, sotto tutto punti di vista, quindi... E vogliamo forse che Antonio Conte faccia sempre polemica, Fabrizio Bocca? Beh sì, dai, lo vogliamo, diciamo la verità, lo vogliamo. Assolutamente sì, a noi questo ci serve. Che ci frega di Antonio Conte che fa il lord? Scherziamo. Perché sennò che siamo qui a fare? Assolutamente sì, devo dire che però Conte, per quanto riguarda l'ironia, sono proprio due cose differenti, sono due cose distanti, insomma, è sempre... Ricordatevi la frase agghiacciante che lui lanciò col calcio scommesse a inizio stagione, quando fu squalificato e poi divenne anche un tormentone, no? Oramai si fa fatica a riconoscere chi è Kroos e chi è Conte, è agghiacciante, esatto, paura. È un grande personaggio. È un grande, comunque, Italia, Conte è un grande personaggio. In Italia sicuramente tra i top allenatori, forse il migliore, insomma, in questo momento. Ha un grandissimo carattere, anche grandi capacità. Secondo me adesso deve cominciarle a dimostrarle anche in Europa, perché tutto sommato, sai, gli allenatori sono tutti bravi, poi però queste capacità qui le devi dimostrare a un certo livello. Anche lui, lo scorso anno, quando la Juventus è stata eliminata, insomma, non è che fu lucidissimo in quelle partite col Bayern, e quindi anche lui deve dimostrare delle cose, insomma. Assolutamente, grazie Fabrizio Bocca, ciao a tutti.